Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadori in regia. C'è già un messaggio di un ascoltatore, 349-238-6666, che vuole complimentarsi. Lo facciamo naturalmente anche noi con i nuotatori azzurri che oggi hanno fatto la storia. Complimenti a loro, a tutti gli sportivi che fanno sport minori sottopagati e messi in luce solo per pochi giorni all'anno. Come avete sentito nel giornale radio, tripletta dopo l'argento di Cleri di ieri, tripletta nel lago Balaton, nella 5 km con Ferretti davanti a Ercoli e Simone Ruffini. Terzo, notizia di oggi oltre a questa splendida, Mourinho nella notte ha vinto la sua prima partita 3-2 contro l'America, squadra messicana, partita giocata a San Francisco. 3-2 per il Real Madrid, a segno anche Cristiano Ronaldo e Higuain. Però la notizia vera che esce dal Real Madrid è il nuovo infortunio a Kakà, che ha abbandonato il Real in America, è tornato in Europa, si sottoporrà ad un consulto dal ben noto professor Martens, nome che gli appassionati di calcio conoscono bene ormai da molti anni, e probabilmente dovrà essere operato al menisco del ginocchio sinistro e starà fuori forse un paio di mesi. Certo nulla in confronto all'infortunio di ieri di Jovetic, tegolaccia sulla testa della Fiorentina. Poi altre notizie di oggi, Mexès e Benzema tornano nella nazionale francese, Blanc li ha convocati per la partita contro la Norvegia dell'11, ha parlato anche uno che non è stato convocato e probabilmente certamente non lo sarà più, Nicolas Anelka, che è tornato sui mondiali dicendo cose carine: in Sudafrica non sono servito a nulla, dove non è riuscito a darmi il disgusto del calcio mentre partecipavo ai miei primi e ultimi mondiali. E poi dicono che di me non ho rispetto dei kamikaze, se aveva voglia di uccidersi, ha detto sempre Anelka riferito a Domenech, doveva farlo da solo, non con noi. Poi ha negato di aver pronunciato quelle parole che sono state pubblicate sulla prima pagina dell'Equipe, che ben conoscete, non sono elegantissime, inutile ripeterle, tanto sono ormai storia vecchia. Tra le altre notizie di giornata, una cestistica in attesa dell'Italia di questa sera: i Celtics, i Boston Celtics ingaggiano Shaquille O'Neal per la prossima stagione. Sempre notizie di oggi, delle ultime ore, delle ore che verranno: il Milan a Detroit giocherà domani con il Panathinaikos. Ronaldinho però, come sapete, non c'è, è infortunato e poi ieri sera aveva forse un altro impegno. Sto scherzando, ieri sera al Festival Latinoamericano di Milano, parcheggio del Forum di Assago, ormai manifestazione cult dell'estate milanese, c'era Oscar De Leon, il leone della salsa, e Ronaldinho verso mezzanotte si è presentato sul palco. Canottiera gialla, jeans da rapper, catena al collo, ha abbracciato tutti, ha salutato tutti in un tripudio di cellulari che scattavano fotografie. E poi si è messo al tamburello e ha accompagnato il gruppo per un brano. Ha risalutato tutti e se n'è andato, almeno credo. C'ero anch'io, l'ho visto, sono testimone oculare. 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Però al di là di tutto questo, so che volete continuare a parlare di, lo so, perché ogni giorno ricevo tante telefonate in proposito, credo anche oggi. 800 24 00 24, ripeto, numero verde. Volete continuare a parlare di giovani, di sogni, di rivincite, di resurrezioni vere, presunte, reali, non so quanto. Facciamolo molto volentieri, tanto i sogni non costano nulla. Allora, Paolo Berrettini nel 2003 vinse da commissario tecnico dell'Italia Under 19 un europeo, cosa che non ci è capitata molto spesso. A livello di Under 21 abbiamo vinto molto, Under 19 abbiamo fatto più che altro delle figure non buone, pessima quella di quest'anno, come sapete. Nel 2003 lo vinse con giocatori come Chiellini, Pazzini, Aquilani. Tre anni dopo doveva essere allenatore dell'Under 21 e invece fu trombato. Il perché non lo so e lo chiedo a lui. Buongiorno. Buongiorno. Perché ha lasciato l'azzurro? Onestamente oggi siamo credo al 5 luglio del 2010, sì, e ancora non so le motivazioni, chiaramente. E questo mi dispiace molto, anche se voglio rimarcare che praticamente devo ringraziare la federazione per l'esperienza che mi ha fatto vivere in tantissimi anni, in 14 anni, non solo di calcio ma anche di vita, girando il mondo e conoscendo tantissime persone. Per me è stato un successo e quindi per questo la devo ringraziare, la federazione. Però onestamente sono stato allontanato in maniera poco carina, nonostante i successi che ho ottenuto. Lei ha ricordato il campionato d'Europa del 2003, ma ho anche un'altra medaglia d'oro all'Università del 97 a Palermo, che anche lì sono, onestamente, senza presunzione, sono entrato nella storia. La nazionale under 19 in 40 anni di settore giovanile della Federazione Italiana Gioco Calcio l'ho vinto soltanto io. E quindi onestamente ho detto ringrazio tutti ugualmente, però meritavo sicuramente più rispetto. Ad oggi onestamente le motivazioni non le so, però ci sono stati in quel momento dei disordini di calciopoli, di cose varie, che io non sono stato mai coinvolto e non c'entro proprio nulla con calciopoli, e questo mi è dispiaciuto perché la gente mi ha apprezzato molto in Italia per quello che ho fatto. No, ma certo, poi i risultati ci sono. Per l'Italia, una volta allontanato dalla federazione, sentirmi dire dalle persone amiche ma che cosa hai fatto, che è successo, questo mi ha fatto molto male, lo capisco bene. Io ho letto qualche giorno fa, forse ieri, una sua intervista con attenzione sulla Gazzetta dello Sport, e dice due cose che mi interessano molto. Alla domanda: la Francia è uscita malissimo dal mondiale dei grandi, poi ha vinto l'Europeo Under 19 pochi giorni fa, noi no, bastonati in Sudafrica e Under 19 spazzata via, perché? La sua risposta è questa: prendersela con gli stranieri è sbagliato. Problema numero uno è il campionato primavera. Non serve a niente, non fa maturare i ragazzi, non trasmette la giusta cattiveria. Un torneo per bambini. Sono d'accordo, e non solo per quanto riguarda il calcio, anche gli altri sport. Io confermo quello che ho detto perché ho seguito tantissimo questo campionato. Ho fatto anche diverse riunioni in giro per l'Italia e ho sempre detto che il campionato primavera non serviva a nulla, non l'ho detto soltanto l'altro giorno alla Gazzetta dello Sport, lo dico da anni, perché io che devo allestire una nazionale under 19 con i giocatori che militano nel campionato di primavera, quando vai in campo internazionale chiaramente diventa dura. Servirebbe un campionato di sviluppo. Certo, certamente, io ho mandato un messaggio l'altro giorno con la Gazzetta dello Sport, poi ha replicato Albertini, dopo quello che ho detto io ha replicato Albertini, e chiaramente io queste cose le dico da diversi anni, che c'è da rifare un attimino la riforma dei campionati del settore giovanile, perché matura più in fretta una squadra del campionato primavera che va a partecipare. Certo. Il torneo di Viareggio che incontra squadre internazionali, c'è una maturazione che avviene più in fretta in quei tornei che rispetto al campionato primavera. Berrettini, poniamo una squadra primavera che giochi in Lega Pro, come lei dice, prende gli schiaffoni da giocatori seniores. Adesso non è che dobbiamo copiare le altre nazioni, però se dobbiamo, come dice lei giustamente, dare più cattiveria tra virgolette a questi ragazzi, fargli acquisire più temperamento, bisogna fare i campionati dove c'è più agonismo, dove c'è più appunto cattiveria, ripeto ancora una volta, dove appunto avviene una moderazione più in fretta. Perché io sono anche d'accordo, per dire, quando le società professionistiche tipo Roma, Atalanta, Lazio, Milan, Inter danno in prestito alle squadre di Serie B questi ragazzi giovani di 19 anni in Serie B, già questo per me va bene, perché anche se giocano poco comunque si allenano con giocatori che hanno 26, 27 anni, e quindi stando vicino a questi giocatori anche durante la settimana imparano il mestiere. È un bene, imparano il mestiere. Però no, però certamente c'è da fargli fare un campionato vero. Il campionato ma non c'è dubbio, il campionato primavera è semplicemente un campionato, come dice lei, per bambini, e da lì non si esce giocatori di calcio. Ci fermiamo un attimo, mi perdoni, ci fermiamo un attimo per il traffico, lei stia lì che subito dopo andiamo a un'altra parte del discorso che mi interessa molto, ci sono già ascoltatori. 800 24 00 24, a dopo. A tempo di sport. Un messaggio di Fede da Alessandria scrive: fussi lorato incomprensibilmente, anche gentile. Lo diciamo che uno dei danni di Calciopoli fu l'ascesa troppo rapida di Albertini, oppure è un intoccabile? Domanda Fede. Diciamolo pure, non mi risulta sia intoccabile. L'ascesa di Albertini è stata molto rapida, è un personaggio che conta molto a livello federale. Sempre collegato con noi Paolo Berrettini, abbiamo detto dunque del problema campionati, ce n'è un'altra risposta che lei dà e che insomma rafforza le mie convinzioni. Lei dice i genitori, altri problemi, uno è quello dei genitori, tutti convinti di avere un tot in casa, bisognerebbe interdirli dai campi, sono anni che lo dico perché tutte le volte che mi capita di affacciarmi ad una partita di sport giovanile, non solo di calcio, ne esco vagamente disgustato. Poi lei dice anche i ragazzi stessi, in buona parte, sono maleducati, insofferenti, viziati. Poi talent scout, bisogna vedere di tutto e di più, si deve battere territorio, fermarsi sugli spiazzi delle periferie. Qualche volta sono andato allo Zen di Palermo a seguire le partitelle di strada, sono tutti problemi seri e reali, caro Berrettini. Poi arrivano nei settori giovanili italiani, tanto per tornare al problema, non sono gli stranieri, quantomeno non sono il principale problema, arrivano ragazzi di altri paesi che hanno voglia di sfondare, i cui genitori sono lontani, che sono via di casa, che crescono più in fretta, e i club, che non sono enti di beneficenza ma aziende, si affidano spesso a loro. Poi la colpa è degli stranieri e noi vogliamo proteggere il posto dei nostri ragazzi. Io lo trovo sbagliato. Io non credo assolutamente, nel modo più assoluto, che il problema siano gli stranieri, perché la mancata finale o la mancata vittoria finale del campionato d'Europa non giustifica il fatto che è colpa degli stranieri, assolutamente, perché quando ho vinto anch'io nel 2003 ho vinto io e c'erano gli stranieri, quindi non è un problema, perché onestamente i giocatori bravi in Italia ci sono e onestamente allestire le nazionali dico che non è una cosa facile comunque per come si svolgono i campionati, sì. Io perché ci sono riuscito? Con il tempo, piano piano, in qualche inserimento importante alla volta, di ragazzi come ha citato lei, Gellini, Aquilani, Pazzini, Potenza, Lodi, bisogna anche. Ma i nostri ragazzi hanno voglia di soffrire, di fare quella strada in salita, in ripida salita che serve per arrivare a fare lo sport da professionisti. Io in questo momento non sono convinto di questo. Cioè non c'è grande sacrificio da parte dei ragazzi ultimamente, a mio avviso. Ma perché la mia impressione è che escono dal settore giovanile, prendono un contratto in quella che era la C1 e dicono ok, adesso sono un giocatore di calcio. Sì, perché si pensa probabilmente già ai soldi, si pensano ad altre cose, non si pensa magari a dare tutto in campo. Io sono fiero di aver vinto perché sono contento, soprattutto li ringrazio di cuore per i ragazzi, perché sicuramente se io non avessi vinto Pazzini, Lodi, Aquilani e quelli che abbiamo citato, Chiellini, sicuramente non avrebbero fatto la carriera che hanno fatto, perché adesso i giocatori dell'Under 19 che io ho visto giocare di quest'anno, sì, che hanno fallito il campionato d'Europa, io l'ho visto giocare, ci sono buoni giocatori, però non avendo vinto, perché anche arrivare secondi non si ricorda mai nessuno, non avendo vinto sono convinto che non riusciranno a fare quella carriera che hanno fatto, sì, i vari giocatori che abbiamo citato, perché a quell'epoca si sono rese conto le società, quando ho vinto il campionato d'Europa, che avevano dei campioncini in casa, si sono resi conto. E qui quindi adesso questi ragazzi che non sono andati molto bene in questa manifestazione, sicuramente non dico che avranno i problemi, ma per loro sarà sicuramente dura. Sì, certo. Poi tornando al discorso dei settori giovanili, io seguo sempre con grande continuità e grande attenzione come si lavora sia nei dilettanti che nei professionisti. Molto spesso mi trovo in tribuna e sento delle cose allucinanti: mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori, da parte dei degli allenatori, da parte dei giocatori, i genitori che in tribuna dicono delle cose allucinanti. Questa è mancanza di cultura, ma tante cose qui dobbiamo prendere esempio. Purtroppo, nonostante a noi il calcio eravamo forse i primi al mondo per tutto, per come si lavorava, tutto quanto, però veniamo a mancare di cultura, perché vai in Inghilterra, io sono stato diverse volte, vai a vedere le squadre del settore giovanile, non ci sono le barriere. Bravissimo. I nostri stati sono tutti recintati di barriere. Non c'è nessun ragazzo che si permette di andare a mettere le mani addosso all'arbitro nel modo più assoluto. Insomma, lei dice di cultura, questione di educazione che certamente che manca. Qui è da rivedere veramente tutto, perché ho detto, ripeto, sicuramente quando ho operato per 14 anni nelle nazionali non mi sono accorto più di tanto, ma adesso che sono fuori, che giro per gli stati, è una cosa veramente allucinante. Veramente c'è grande maleducazione sia da parte sia da parte dei giocatori e da parte dei genitori, perché certamente, onestamente, pensano non solo di avere tutti dentro casa, ma vogliono che i loro figli arrivino a tutti i costi. Sì, sì. E se l'allenatore non li fa giocare, impegnandosi pure casa, per dire. Sì, sì, sì, sì. No, no, se l'allenatore non li fa giocare, semplicemente perché è un cretino, no? Perché il discorso. Come io che, sono appassionato, ho una grande passione per i giovani e apprezzo tantissimo in questo momento, perché lo sto seguendo veramente con grande attenzione, il lavoro che sta svolgendo Zema sta prendendo tutti i giocatori del campionato primavera, dalla Sampdoria, dal Palermo. Questo significa lavorare con i giovani. No, come certo. Fa il signor Zema? Come fa il signor Zema? Poi se piace a tutti vincere, a tutti piace vincere, però prima fai crescere l'atleta, non solo tecnicamente e calcisticamente, perché lei sa meglio di me. Lei sa meglio di me come l'Italia è il paese delle scorciatoie. L'Italia è il paese delle scorciatoie, no? Si vuole arrivare, però fare la minor quantità di fatica possibile. Senti, io la ringrazio, aggiornerei la seduta, ma ci risentiamo a stretto giro di posta, perché la conversazione è estremamente interessante. Grazie, alla prossima. Grazie a Paolo Berrettini, con cui abbiamo aperto questo programma. Adesso continuiamo con gli ascoltatori. Più tardi invece vi porto nei corridoi del potere, in quella che diventerà la nuova casa di Baggio, Rivera e Arrigo Sacchi, perché c'è un collega che c'è stato, ci ha ficcato il naso, poi ci facciamo raccontare dopo la borsa. Questo accadrà. Adesso Gianni da Siracusa e Luca da Brescia. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno dottor Genta. Salve. Niente, io qualche mese fa scrissi una email al dottor Garanzini in cui proponevo di incentivare l'impiego dei calciatori italiani attribuendo una fetta maggiore di introiti alle società che avessero schierato più italiani, o in alternativa penalizzare quelle squadre, faccio l'esempio dell'Inter, che schierano più di 5 stranieri contemporaneamente in campo. Il dottor Garanzini mi rispose gentilmente dicendo che pensava che non si potesse fare. Ora sento che in Inghilterra impongono una rosa di 25 giocatori, di cui almeno 8 devono provenire dal vivaio. Sì. Ecco, vorrei sapere perché da noi dettare regole più stringenti sembra impossibile. Sì, però io le chiedo una cosa, Gianni, torno al discorso che facevo prima. Siamo sicuri che la strada giusta sia quella di creare un protezionismo nei confronti dei giocatori italiani per squadre, indirizzato verso squadre professionistiche? Ma si tratta di creare più spazi per questi giocatori. E perché, crearli? Perché non se li vanno a prendere? Ma i giocatori per crescere hanno bisogno di giocare. Benissimo, hanno bisogno di giocare, però devono giocare quelli bravi. Devono giocare, cioè i club non sono enti di beneficenza. No, non è che mancano i calciatori bravi da noi. Ma insomma, se ci sono, giocano in linea di massima. Se non riescono a giocare in Italia vanno all'estero. Se non riescono a giocare all'estero in Inghilterra, andranno all'estero in Portogallo, se non riescono a giocare in Portogallo andranno in Svizzera, prendono la valigia e vanno a giocare all'estero. Io ho l'impressione che questo meccanismo, al di là del fatto che poi si vogliono incentivare i risultati delle nazionali, eccetera, eccetera, eccetera, però ho l'impressione che questo meccanismo del protezionismo non sia la strada, la strada corretta, perché, come ha detto, ad esempio, mi vengono sempre in mente le parole di Dino Meneghin, no? Perché questo problema non esiste solo nel calcio, lo sapete benissimo, esiste in tutti gli sport italiani, soprattutto quelli di squadra, che stanno vivendo una crisi senza precedenti, io credo. Bene, Meneghin ha detto, quando giocavo io c'erano gli americani, è chiaro, non c'erano tutti quelli che ci sono adesso, però io gli andavo a rubare la palla e facevo canestro. Io lottavo tutti i giorni contro gli americani per dimostrare che ero più bravo di loro. Quindi lo spazio, è vero, è una questione di mentalità, perché da noi un giocatore di 26 anni viene ancora definito giovane, che è una pazzia assoluta. È una questione di mentalità che vale non solo nel calcio, nello sport, ma in tutti i settori della vita, perché questo è un paese per vecchi. Però è anche vero che questo meccanismo del protezionismo non sono così convinto che funzioni a livello, ripeto, di sport professionistico. Luca da Brescia, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Allora, volevo parlare di un altro argomento, ma siccome quello che sta dicendo è molto giusto, io sono amministratore di un'azienda e quando assumo un dipendente, che sia italiano, che sia estero, basta sia un bravo dipendente fondamentalmente. E certo. Certo, e non capisco perché gli operai italiani, tra virgolette, hanno la concorrenza normale come qualsiasi situazione di lavoro, i calciatori, che tra l'altro sono anche i più coccolati, sì, devono essere ulteriormente protetti e coccolati. Non solo i calciatori, stiamo parlando di sport in generale, perché anche sa benissimo che anche in altri sport si pone questo problema, ovviamente professionistico, perché ci sono sport come ad esempio la pallavolo, che è uno sport ancora formalmente dilettantistico, può mettere tutti i vincoli che vuole anche nei confronti dei comunitari, però insomma è un discorso generale quello che stiamo facendo. Dica, Luca. Appunto, quindi dicevo, è veramente paradossale che nello sport professionistico ci sia un atteggiamento che non ha senso sul mercato. È chiaro. Proprio non ha senso. Chiaro. Tutto qua. Benissimo. Quindi, completamente d'accordo con lei. Grazie Luca, grazie, non perché è d'accordo con me, ma grazie del suo intervento, perché ha aggiunto una cosa molto corretta. In tutti gli altri settori della vita non esistono passaporti, perché qui sì. Massimiliano La Spezia, buongiorno. Buongiorno, salve, senta, io parto dal presupposto che in Italia manca il coraggio da parte degli allenatori di poter inserire giovani interessanti. Sì. Dove dalle altre parti nel mondo riescono, diciamo, a inserirli più facilmente perché hanno più coraggio rispetto a noi. Noi in Italia abbiamo ancora la cultura del grande giocatore, comprare il grande giocatore di Ibrahimovic, che il Milan vorrebbe comprare. Sì, certo, sì. Però lei sa bene che insomma qualcosa da questo punto di vista è davvero in atto, nel senso che, visto che non ci sono più i denari per comprare i grandi giocatori, ecco che le squadre, ad esempio il Milan ha cominciato l'anno scorso a investire sul settore giovanile. È chiaro che ci vorrebbero dei meccanismi in grado di, qui sì, di proteggere, ma tra virgolette, il prodotto del settore giovanile, attraverso una regolamentazione contrattualistica che permetta alla società di non vedersi scippati i giocatori che cresce mettendo denari. Quello che penso io è che gli investimenti da fare sui settori giovanili, lo ripeto tutti i giorni, però continuo a farlo volentieri, gli investimenti da fare sul serio sui settori giovanili non debbano essere in chiave protezionistico, in chiave di italiani, di giocatori nati qui, giocatori elegibili per la nazionale. Gli investimenti da fare sui settori giovanili realisticamente devono essere in strutture e in istruttori adeguati all'altezza di esperienza, perché tutte le volte penso all'esperienza americana, degli sport americani, dove i grandi vecchi, tra virgolette, tra gli allenatori, sono quelli che si dedicano con maggiore profitto ai giovani. Pensate al mondo dei college americani, nel basket, ma anche nel football, in altri sport. Sono dei santoni veri, gli allenatori d'esperienza. Qui invece la crisi economica cosa ha fatto? Ha fatto sì che le squadre professionistiche, adesso rimane il settore giovanili, ha degli allenatori senza adeguata preparazione, senza adeguata esperienza. Quindi questi sono gli investimenti da fare, a mio parere. Ci sentiamo dopo la borsa. tempo di sport. Dunque, torniamo a una miriade di messaggi, ma anche di telefonate, 800 24 00 24. Tra un po' ricominciamo a parlare con gli ascoltatori. Ci sono anche discorsi di retroguardia, secondo me, con questo messaggio di Giovanni. Allora, non chiamiamolo campionato italiano, santi Dio, siamo nel 2010, è un torneo di calcio professionistico. Dunque, non è caso di fare... della demagogia, se vogliamo. Io dico soltanto che i giocatori italiani, nessun club, nessun dirigente, nessun allenatore l'ha nel naso. Si può prendere un giocatore italiano a condizioni di mercato accettabili e di livello pari a uno straniero, a un ragazzo che non viene, o a un giocatore che viene dall'estero. Nessuno è così scemo da andarsi a prendere lo straniero. Però è chiaro che se si crea un meccanismo di protezione, il giocatore italiano costa di più innanzitutto, e molto spesso non allo stesso prezzo non si prendono due giocatori equivalenti. Insomma, si crea uno squilibrio di mercato che ritengo inaccettabile per club professionistici. Io però volevo parlare di un altro argomento, ha già accennato prima. Innanzitutto Baggio, altra notizia di oggi, ha fatto l'esame per allenatore di base a Coverciano, quindi ha fatto il suo esamino e poi è tornato a casa in attesa dei risultati come un qualunque studentello. Ieri Giancarlo Abete ha presentato la nuova triade, no? Baggio, Rivera e Sacchi. Non vi piace triade? Uso adesso la nuova trinità, facciamo trinità calcistica italiana. Dicendo di Baggio, Rivera e Sacchi: sono tre grandi personaggi, non sono uomini immagine ma di sostanza. In comune hanno estro, creatività, libertà di pensiero e soprattutto attenzione per la qualità, la cui carenza è al momento il vero problema del calcio italiano. Quindi, sempre Abete, su Baggio inizia un percorso dirigenziale in cui darà spazio alla sua creatività. Avrà tutto il nostro sostegno, avrà al suo fianco un uomo d'esperienza come Renzo Olivieri, che ricoprirà il ruolo di direttore della scuola allenatori di Coverciano, eccetera, eccetera, eccetera. C'è però un collega, che è Francesco Perugini, di Libero, che è andato a ficcare il naso nei corridoi del potere di Coverciano, nei corridoi del palazzo di Coverciano, che diventerà la nuova casa di Baggio, che è a capo del settore tecnico della Federcalcio, che ricomprende un sacco di branche, di uffici, di attività, dai contenuti un po' misteriosi. Francesco Perugini, buongiorno. Buongiorno. Cosa hai trovato? Beh, cose abbastanza interessanti, soprattutto per un giocatore che, come hai detto tu, oggi fa il tesserino per l'allenatore di base, da domani, diciamo, sarà capo degli allenatori italiani. E questo è già curioso. Sì. In più, a Coverciano, che noi in fondo consideriamo solo quando ci abbiamo andato a vedere i ritiri della nazionale, abbiamo scoperto che c'è un centro studi, una sezione medica, la ben nota scuola allenatori, e ti leggo testualmente: una sezione per lo sviluppo tecnico nel calcio giovanile scolastico, che sarà la nuova casa di Rivera, e un laboratorio di metodologia dell'allenamento biomeccanica applicata al calcio. Biomeccanica applicata al calcio, questa è responsabilità di Baggio, questa è roba di Baggio, giusto? No, in realtà è una partnership con l'Università di Firenze e studia un po' gli aspetti più atletici del gesto tecnico, più veramente di fisiologia meccanica. Il problema è che se si vanno un po' a spulciare il sito della FIGC, si scopre che una delle ultime produzioni è uno studio sui portieri delle nazionali giovanili, una ricerca semi-longitudinale sulle capacità e sulle abilità, questo è sempre testuale. Sì. È un aspetto un po' lombrosiano, si vanno a misurare l'altezza, la lunghezza delle braccia, la reazione oculomotoria dei giovani portieri. Senti, ma tu cosa ti immagini? Allora, Baggio va lì, è responsabile di queste cinque sezioni: centro studi e ricerche, sezione medica, scuola allenatori, sezione per lo sviluppo tecnico nel calcio giovanile scolastico, laboratorio di metodologia dell'allenamento e biomeccanica applicata al calcio. Arriva lì e dice: e cosa fa? Secondo cosa me guarderà dalla finestra al centro sportivo di Coverciano, te lo dico molto direttamente. perché anche parlando con il direttore del settore tecnico, Paolo Piani, è stato gentilissimo, anche lui ha detto sì, potrà dare delle indicazioni sulla formazione dei nuovi allenatori o dare delle direttive per le ricerche del settore tecnico, del centro studi, scusa. Che adesso sono più sull'economia del calcio, potrebbe chiedere maggiori ricerche sulla qualità. A noi è sembrato un ruolo abbastanza inutile per un patrimonio del calcio italiano come Baggio. Sì, lo sembra anche a me, anche perché non capisco, ma anche Arrigo Sacchi, concretamente cosa può fare a capo del coordinamento tecnico delle varie nazionali, cioè in concreto, cioè, che cosa vanno lì a fare? Loro continuano a dire, anche lo stesso Gianni Rivera, non andremo lì a fare figurine, io voglio credergli sulla parola, però mi sembra che da tutto questo mare magno che c'è lì a Coverciano non è che di recente siano uscite grandi indicazioni. Sì, soprattutto perché se pensi che al posto di Baggio prima c'era delle vicine che noi... Sì. Sinceramente immaginavamo al parchetto, invece quando si è scoperto che sarebbe stato il predecessore di Baggio abbiamo scoperto che appunto era ancora su piazza. E oggettivamente è una situazione abbastanza scura. Guarda, Sacchi ha ancora quell'aura di autorità che potrebbe servire a dare uno scossone alle nazionali giovanili che, come abbiamo visto all'ultimo Europeo Under 19, stanno portando pochissimi risultati come la nazionale maggiore. Rivera è sinceramente un ruolo, secondo me, di facciata, perché sì, un giocatore che, mollate le scarpette, si è seduto sulla poltrona di vicepresidente del Milan, sì, poi è entrato in Parlamento, adesso si trova a capo del calcio giovanile. Sì. Sinceramente... Gianni Brera, no, ma io insomma mi auguro che Rivera, che comunque è uno che ha idee, che ha coraggio di parlare, possa servire a qualcosa. Mi tengo i miei dubbi su tutti e tre, sull'utilità pratica poi del lavoro che faranno tutti e tre. Per chiudere, Francesco, quanto costa tutta questa storia di Coverciano? Allora, sono calcolati una trentina di dipendenti più 20 dipendenti delle ditte esterne che si occupano della manutenzione e del portierato. Diciamo che ha un costo di un budget di 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungono 4-500 mila euro di spese di manutenzione, quindi 2 quindi milioni di euro. Coverciano costa 2 milioni di euro l'anno. Sì, e tra le altre cose, noi ci abbiamo un po' scherzato in un titolo. A Coverciano anche sede il Museo del Calcio, quindi Robby se annoierà potrà andare a guardare la sua maglia numero 10 di USA 94, che è uno dei pezzi più pregiati del museo. Sì. Grazie Francesco, buon lavoro. Alla grazie prossima. A voi, grazie. Giorno. Grazie a Francesco Perugini da Libero, che ha scritto appunto questo articolo qualche giorno fa, mercoledì per la precisione, il titolo è Il cimitero di Baggio. Matteo da Lucca, Alberto da Verona, Claudio da Firenze, tre ascoltatori in linea. Naturalmente mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che ci auguriamo tutti insieme che Baggio, Rivera e Arrigo Sacchi possano sul serio fare la rivoluzione. I nostri dubbi però ce li teniamo stretti. Matteo da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Senti, io volevo fare un intervento per quanto riguarda un po' la competitività dei nostri club all'estero, in questo senso, partendo da questo, diciamo, questo esempio che poi spero che anche lei mi aiuti a capire. Cioè, 2 anni fa la penultima finale di Champions fu Manchester-Barcellona a Roma e c'erano in campo due squadre che avevano, se non ricordo male, 700 milioni di euro di debiti in campo. Allora mi è sorto il dubbio che secondo me è anche concorrenza sleale, perché alla fine si perdono noi italiani posti in ranking in UEFA, quindi in squadre che magari perdiamo il quarto punto. Sì. E oggi leggo, cioè oggi, gli ultimi giorni ho letto che il Barcellona con 426 milioni di euro di debiti comunque ha comprato Villa e rischia seriamente di comprare Fabregas con un prestito di 155 milioni di euro dalle banche. Allora io dico, da profano, dov'è il trucco? Perché l'Inter... Moratti ora ha chiuso i rubinetti anche lui, quindi va bene. Perché il Milan è anni che è fermo? Perché la Juve magari ora deve vendere Camoranesi, Grosso e compagni prima di comprare qualcun altro? Cioè, come mai le società italiane non si fanno dare 160 milioni di euro da una banca per comprare che li Matteo, non si fanno dare 156 milioni di euro da una banca, anche perché molto spesso non sono in grado di restituirli, mentre la banca la banca li presta magari a Florentino Perez perché Florentino Perez interessa in grado di pagarli. Perché è in grado di pagarli? Perché il Real Madrid è amministrato, lei ha ragione, detto questo lei ha ragione, però per capire la differenza, Real Madrid è amministrato con criteri imprenditoriali, dunque il Bernabéu è una risorsa, tutte le attività connesse al Bernabéu sono una risorsa, il merchandising è una cosa seria e frutta milioni, i diritti televisivi venduti in Estremo Oriente fruttano milioni, dunque è un modo diverso di gestire il calcio. Gli inglesi sono indebitati fino al collo, però quando si tratterà di perseguire il famoso fair play finanziario voluto da Platini, avranno da iscrivere a bilancio dei beni patrimoniali che sono ad esempio gli stadi, no? Qui in Italia così scriviamo nel valore dei beni patrimoniali, così scriviamo, le scarpe dei giocatori. Però per esempio fra l'anno prossimo ci sarà la Juve, non credo che comunque la Juve con lo stadio di proprietà chiederà mai comunque 200 milioni di euro da una banca, e non penso che la famiglia Agnelli non possa restituire 200 milioni di euro. No, ma non è questione di restituzione, è questione di quanto si produce con l'industria del calcio, con quell'azienda che è la squadra di calcio. Io credo che la Juventus è criticabile finché volete dal punto di vista delle campagne acquisti degli ultimi anni e dell'inesperienza, in alcuni casi palese, dei propri dirigenti nelle ultime stagioni, però dal punto di vista imprenditoriale è una squadra certamente all'avanguardia nel panorama italiano. Matteo, discorso interessante, la devo salutare però perché ho il traffico e devo dare questa notizia: Kakà operato, dunque vi ho detto prima che doveva essere visitato da Martens, già fatto, verrà operato al menisco e starà fermo per i prossimi 2 mesi. Traffico. A tempo di sport. Per capire qual è il vero motivo per cui la Federcalcio ha ingaggiato, ha preso Roberto Baggio, basta leggere questo messaggio di Roby da Brescia. Lavati bene la bocca quando parli di Baggio, incompetente. Perché io cosa ho detto contro Baggio? Però Baggio, come vedete, è in questo momento uno, ma certamente è uno credibile, è stato un grandissimo giocatore, un giocatore immenso, quello che volete. Per il resto vediamo che cosa può fare adesso, se potrà effettivamente fare qualcosa. Io me lo auguro, mi auguro davvero che possa fare la rivoluzione. Ho i miei dubbi e me li tengo, ma non perché è Baggio, perché questa ferraglia che gli è stata messa in mano, questi laboratori, questi settori, eccetera, eccetera, ho l'impressione che siano una grande scatola vuota. Alberto da Verona, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare 2 considerazioni, 2 mie convinzioni, poi possono diventare delle domande, lei sì, può rispondere. Sì. Allora, sui parte dei settori giovanili che esistono in Italia, l'ha fatto raffronto con l'estero. Io sono dell'idea che forse all'estero proprio la filosofia è completamente diversa, perché se ad esempio si parla tanto della cantera del Barcellona, però lì oltre che formare dei giocatori formano degli uomini. Sì. Da lì il fatto che poi non succede come è stato detto, che mancano di educazione, ci sono dei comportamenti che sono diversi. Tutto corretto, e poi per tornare al discorso che facevamo prima con Berrettini, vengono svezzati non in inutili campionati giovanili, non in tornei per bambini, ma nelle squadre B che giocano le serie inferiori. Però posso dire che anche la filosofia e la mentalità di un incontro di calcio è completamente diversa. Sì, sì. Cioè, gli inglesi, che sia una partita di seconda o terza divisione, è un incontro nel calcio dove tutti si divertono e per 90 minuti giocano, sì, perché fanno cose diverse. Quindi l'unico know-how che ultimamente esportiamo sono gli allenatori, che tecnicamente sono preparati, però dovremmo forse essere un po' più umili e capire come si fa realmente a gestire quello che è il calcio, perché ne abbiamo gli esempi dalle altre parti. Sì, questa è la prima considerazione. Sì, l'altra? La seconda è dire non esistono i campioni. Allora si potrebbe dire anche negli altri sport, come lei ben accennato, a parte gli Stati Uniti, che dove in qualsiasi college e scuola tu hai la facoltà di poter scegliere e decidere lo sport che vuoi fare, quindi magari qualcuno viene fuori. In Italia a parte la pallavolo, dove non c'è contatto fisico, eccetera, allora ben ci guardiamo da praticare altri sport, perché oltretutto non ci sono le strutture. Però ad esempio Italia, 56 milioni di abitanti, non riusciamo a tirar fuori un tennista. E una nazione come il Belgio o la Svizzera, che sono grandi come la Lombardia, tirano fuori. Sì, lì, anche lì è questione. Ci salviamo col nuoto. Cioè, no, beh, però Alberto, è questione lì di tradizioni sportive, di cultura, di strutture, eccetera. Per la verità, l'Italia è un paese molto trasversale dal punto di vista degli sport. Siamo bravi o addirittura molto bravi in moltissimi sport. Più che di quanto non accade in altri paesi. Abbiamo lo sciatore, abbiamo il tennista poco, però le tenniste le abbiamo. Abbiamo il golfista, abbiamo in alcuni momenti storici la squadra più forte del mondo di pallavolo, in altri momenti storici una squadra di basket comunque ad alto livello. Siamo stati campioni del mondo di calcio. Insomma, siamo molto trasversali da questo punto di vista. Quindi non mi sentirei di raccogliere questo rilievo. Dunque abbiamo molta fretta. Gianluca da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sempre riguardo all'argomento della difficoltà nel reperire giocatori, secondo me è anche molto influente il calo demografico che si è avuto. Sì. Ma io vedo che in tutti gli sport, in tutti di squadra in particolare, i settori giovanili soffrono, cioè non vinciamo nulla. Io sono degli anni 70, quindi ho vissuto anche le vittorie dei campionati giovanili di basket, dei campionati giovanili di pallavolo con Zord, insomma, giusto per fare dei nomi. Sì. E adesso tutti gli sport di squadra indistintamente hanno difficoltà, quindi secondo me è anche importante questo, insomma, ci sono pochi giovani su cui andare a Ci sono pochi giovani che hanno voglia di fare sport, questo è un dato di fatto, e ci sono ancora meno giovani che hanno voglia di fare quella strada in salita che serve per diventare professionisti nello sport ad altissimo livello. Questa è una mia convinzione in questo particolare momento. È anche un problema di strutture, come accennava l'ascoltatore precedente, perché onestamente basta girare un po' l'Europa, insomma, siamo visibilmente arretrati da questo punto di vista. Non ci sono spazi di livello in cui fare sport fruibili. Piero da Lecce, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire sempre sull'argomento dei giovani. Io ho 47 anni, quando studiavo a Bergamo avevo la fortuna di andare a vedere il Milan e ricordo che ho visto il grande Milan, però il grande Milan aveva 3 giocatori forti stranieri, tutto il resto erano italiani, molti venivano dal settore giovanile, Baresi, Costa Curta e quant'altro, allora, sono cose che si sanno, ma allora non è questione di stranieri, è la questione di investire sul settore e più che altro avere anche una mentalità vincente, non basta soltanto allenatore, ma riguarda tutta la squadra. Io sono molto d'accordo sul fatto di non mettere protezionismo, perché un giocatore che vale deve essere un professionista a tutti i livelli. E poi ormai spazio in Europa. Certo. Però se non si fa giocare un giocatore ai giovani, pensiamo all'Arsenal in Inghilterra, che l'età media ha 23-24 anni. Sì, certo, però vanno a prenderli, Piero, vanno a prenderli in tutto il mondo, hanno questa politica, questa filosofia molto, molto difficile da importare in Italia per la nostra mentalità, perché i risultati servono subito, perché non c'è coraggio, perché questo non è un paese per giovani, è invece un paese per vecchi, eccetera, eccetera. Detto questo, bisogna meritarsela la maglia in prima squadra. E se arriva invece dal settore giovanile un africano, faccio per dire, va a giocare in prima squadra, non è che ci possiamo lamentare dicendo che bisogna proteggere i nostri giovani. I nostri giovani quella maglia se la devono conquistare. Luigi Milano, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Dica. Siete? Sì. Sì. Io volevo sollevare questo argomento. Ho 38 anni, ormai per memoria storica mi ricordo il calcio da almeno 30 anni e penso che negli ultimi 30 anni quanti stranieri sono venuti nel nostro campionato e ci ricordiamo di questi? Forse un 5%. Sì. Quindi vuol dire che il 95% degli stranieri che sono venuti in Italia potevano essere tranquillamente sostituiti da tanti talenti italiani che non sono emersi. Sì. Quindi problema. Il mondo del calcio di oggi è fatto di procuratori che devono comandare il calcio e devono portare i giocatori che vogliono loro per degli interessi economici, questo è il mio punto di vista. E poi ci sono altri fattori, cioè la meritocrazia, molti di quei talenti, adesso va bene, mi ricordo Maldini padre, Maldini figlio, tanto di cappello. Ma Luigi, lei ha ragione, però non diamo, ripeto, ai nostri giocatori eccessivi alibi. Non diamo ai nostri giocatori eccessivi alibi, perché se non trovano spazio in Italia attraverso quegli stessi procuratori possono andare a giocare in Olanda, in Lussemburgo, in Austria, in altri paesi. Io mi limito a notare che molto spesso i giovani italiani che sono andati a giocare all'estero poi sono tornati indietro senza aver raccolto troppi risultati, e questo è un altro dato di fatto. Mi resta poco tempo e ho voglia di parlare di motori. Sport e motori. Purtroppo per ragioni di tempo siamo andati per le lunghe con questo discorso, ho appena il tempo di fare due chiacchiere con The Voice, Guido Meda. Ciao Guido. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, io ho ricevuto all'inizio della trasmissione un messaggio che mi chiedeva di parlare, ma perché non parlate di Biaggi? Me l'ha scritto, mi sono anche segnato il nome, Pietro da Monza, Biaggi su Moto Italiana che vince la Superbike. Sì. Lo chiedo a te, un commento su Biaggi che... Molto bene, io direi, una coppia vincente in Superbike. Devo dire che tra appassionati di motori gli ultimi mesi sono stati un po' di diatriba, no? Sì. Nel senso che qualcuno ha provato a mettere la MotoGP e la Superbike sullo stesso piano, quando invece, io qui esprimo un'opinione personale, ma credo che sia anche abbastanza incontrovertibile, è un po' difficile fare un paragone del genere, no? Quando da una parte hai dei prototipi, dall'altra parte hai delle derivate di serie. Io quello che mi sento semplicemente di dire è che per problemi, come dire, economici e per la congiuntura economica che il mondo sta attraversando, e siccome quelli dei motori sostanzialmente è la sala giochi della vita, no? Tutto lo sport, ecco. Spendere soldi è difficile, trovarne da spendere è ancora più difficile, per cui io dico che sia la MotoGP che la Superbike devono fare un bel passo indietro dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dei strumenti, perché sia più facile correrci per tutti quanti. Ecco. Detto questo, io credo che il talento di Biaggi non possa essere messo in discussione, secondo me lui ha fatto, come dire, molti errori comportamentali quando correva nel motomondiale, non ha giocato bene le sue carte, ha deciso di affrontare a muso duro la rivalità con Valentino Rossi, come dire, cadendo quasi sempre nelle trappole che Rossi via via gli disponeva sul cammino, fino a che ha dovuto in qualche maniera ripiegare sulla Superbike rinunciando a una buona parte dell'ingaggio, ma trovandosi finalmente dopo un po' di anni di tentativi a cavalcare la moto finalmente gli piace. Ecco, poi a voler essere cattivi, in molti lo fanno, si può dire che l'Aprilia, quel tipo di Aprilia, nasceva per la MotoGP, quindi è una moto molto veloce, una moto un po' più performante delle altre. Detto questo, non si può togliere a Biaggi il merito che ha nell'averla sviluppata, nell'averla resa una moto competitiva e vincente, perché per quanto buona nascesse evidentemente dello sviluppo sicuro, aveva bisogno, però insomma a me non sorprende il fatto che Biaggi vinca il mondiale. Biaggi in Superbike è senza dubbio il più forte che c'è, si misura con un'enorme dose di talento, con grande esperienza contro piloti. Ed è arrivato là dove doveva arrivare. Guido, io devo chiudere, però avrei voglia di parlare con te molto più a lungo, quindi ci sentiamo uno dei prossimi giorni, prima di Brno, direi. Volentieri. Potresti beccarmi in mezzo al mare su qualche gommoncino, però... Ti becco su qualche gommoncino, così mi fai venire anche un po' di invidia. Il fatto di avere dei bambini intorno che si tuffano a bomba, anzi, cose del genere, io sono... Anzi, ti prego di organizzare i bambini che si tuffano a bomba durante il collegamento. Ah, ti piace questo? Mi piace questo, assolutamente. Va bene. Per radio parleremo, funziona. Immagino, di Rossi sulla Ducati. Bravissimo, hai indovinato. Grazie Guido, un abbraccio. Onore a Biaggi comunque, che è bravo, voilà. Sì, grazie Guido. Alla prossima. Ciao. Grazie Guido Meda, io devo chiudere di corsa. Grazie a Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadone in regia, ci sentiamo domani alle 2.